fantomi perimetri. Nell'ottica del praticante, debole ma attento alle attenzioni della mente. Il gioco di adattarsi e omologarsi alla struttura ti fa felice e complice in un clima di paura. Ti sento uomo occidentale ancora un altro po', un lato da denaro e dal respiro che non ho. Dal nostro benestare di uomini su uomini che contano le ore, proprio nel giorno in cui dondolando nell'attesa, usando l'ignoranza come arma di difesa. Mi scusi, non sapevo, mi ha distratto l'apparenza di vivere una vita respirando per istanza, cercando di confondersi tra classi superiori per non sembrare poveri tra poveri signori. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro. Combatto per me, non per loro. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro. Combatto per me, non per loro. Rivincita del popolo sul re, la vendetta fatta di carne, sudore, pianto, dolore. La libertà la mia, la nostra la tua. Questa è la rivincita del popolo sul re, la vendetta fatta di carne, sudore, pianto, dolore. La libertà la mia, la nostra la tua. La tua libertà. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire, a gran voce, cantare in coro. Combatto per me, non per loro. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro. Combatto per me, non per loro. All'altare il subito prega il suo Dio migliore, ma dentro è stanco, marcio e solo. Il suddito è uomo, il suddito veste sempre firmato, il suddito è parte di questo reato. Fai attenzione, sai perché? Il suddito dorme dentro di te. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire, sentire a gran voce, cantare in coro. Per me, non per loro. Con le tue guerre per il potere, ma il potere è di chi riesce a farsi sentire.